Punti di vista contrapposti. Racconta la tua vita a Nuorese da adolescente e da padre di famiglia. Benissimo, allora partiamo già da 25 anni fa più o meno, partiamo da quando avevo quei 15-16 anni. Allora, Nuoro è sempre stata per me un gioco, ci siamo sempre divertiti, uscivo, c'era da giocare, ci si giocava a pallone, si stava, diciamo come i ragazzi del muretto, no? Si usciva molto in giro ed era un bel... Mi trovavo bene, mettiamola così. Dai 15 ai 16 anni è iniziato un pochettino il mondo del lavoro, perché comunque non avendo paghette ho dovuto un attimino cercare di fare qualche soldino. E Nuoro sinceramente non lo permetteva, ok? Non lo permetteva perché partiamo dal presupposto che siamo sempre stati sottopagati. Quindi sono partito fuori, ho vissuto un pochettino fuori, con la mancanza di Nuoro, perché comunque mancavano gli amici, mancava il muretto classico e lo stare insieme. Diciamo che come posto è vivibilissimo, ok? Si vive bene, si sta bene, è tranquillo, non ci sono tantissime preoccupazioni. Perlomeno quando ero piccolo era così, non avevo nessuna preoccupazione, giocavo, uscivo dalla mattina sino alla sera e non succedeva niente. Quindi è un posto tranquillissimo. Il contro è che, essendo tranquillo, non hai possibilità. Cioè, un ragazzo che voglia studiare o che non voglia studiare non ha tantissime possibilità, ok? Però a livello di umanità c'è sempre stata tantissima, cioè era proprio bello, bello stare insieme, era tanta, tanta cosa. Crescendo, andando fuori, ho visto altre realtà e ho capito che si può stare bene anche in diverse maniere, cioè non solo con l'amicizia e con le cose, ma anche con il lavoro. Ho visto altre realtà che comunque lavorativamente parlando erano meglio. E quindi è sempre stata un'altalena andare e tornare, ok? Comunque la mia famiglia me la sono fatta qui perché è casa mia, cioè Nuoro è casa mia e non, diciamo che non la cambierei con un altro posto, ok? Perché un pezzo di me, come credo che sia un pezzo di tutti quelli di Nuoro, ok? Come dicevano i brasiliani, il saudade, no? Quando vai fuori hai sempre il saudade del tuo posto. Una volta incontrato mia moglie e fatto un figlio, le cose sono un po' cambiate perché le aspettative non sono più divertirsi, uscire, stare con gli amici, ma bensì creare una famiglia, creare qualcosa, un futuro per mio figlio. Ok? E devo essere sincero, io qua ho provato, ho aperto attività, ho provato a crearmelo il lavoro ed è tutto più difficile. Tutto più difficile, tutto più, come te lo posso dire, tutto più in salita. Cioè, se in un posto una cosa la fai con molta più serenità, qua devi sudartela, qualsiasi cosa tu faccia, dalla più piccola cosa alla più grande. Però da padre capisco che qui è un posto tranquillo, c'è cioè, un figlio qua al di fuori del fatto del lavoro, di crearsi un futuro, ha una vita serena, cioè può uscire, posso lasciare mio figlio che ha 11 anni, lo lascio uscire tranquillamente da solo, si fa i suoi giri da solo a 11 anni. Secondo in che città sei, a 11 anni non lo fai uscire un bambino. Ok, quindi ci sono tutti un po', ci sono un sacco di pro e contro con Nuoro, ok? Il bello è che è proprio è un paesone, cioè non è un capoluogo di provincia che però per me è un paesone, è proprio un paesone grande che alla fine non ti conosci tutti e tutti, ma sai chi sei. Ok, questo è il nesso. Quindi un bambino può uscire e non dico che te lo controllino gli altri, però qua c'è ancora un po' di umanità se succede qualcosa, qualcuno si mette in mezzo ancora. Nelle grandi città o negli altri posti queste cose non succedono. Però il pro è quello, il pro non si può vivere. Non puoi crearti un futuro, non puoi prosperare, mi capisci? Cioè è un sopravvivere, ok? E lì nasce lo scontro con Nuoro, capito? Con il fatto di voler bene a un posto, che c'è il proliferare o vivere, cioè di questo, non rimaniamo, non puoi decidere se sopravvivere o vivere, capito? Uno deve sbocciare, non deve stare lì sempre aspettando il nulla, perché qua arriva il nulla, ok? Qui provi a creare, però purtroppo tra stato, tra le gelosie, perché purtroppo qua ci sono anche gelosie che noi non mettiamo in conto, non vai avanti. Cioè va avanti solo chi decidono quelle poche persone che comandano, ok?